cazzo so, già sono in radio. Già sono in radio, e prendi Gianni e Franco, per i saluti a Gianni. Di nuovo Gianni, buonasera, vai Fra. Ehi capo, dai, ciao Gianni. Buonanotte, buon tutto, dai, ce ne ascoltiamo le prossime. Sono già durando, però. Io non sono del tipo che posso stare molto alla radio. Sì, no, vabbè, no, anche io adesso chiudo così mi curico. Però ho capito Fra cosa ti voglio dire. Che a volte si dice, ma non è quello che si crede. Bisogna anche provarlo con gli strumenti. Se c'hai un wattmetro esterno mi te lo provi e dirai Gavino c'ha ragione. C'è tutto collegato, insomma. Sul K c'ho un wattmetro della Raiva di lusso, poi un altro V1 che è un errore che ho fatto comprarlo ed è sempre dentro la scatola, quello volevo mettere in vendita, poi ho detto ma lo cammino a tutti. E l'hai provato quello che ti sto dicendo? Non l'hai provato il latte che ti dà? Adesso? Sì, allora, portate muzza, sono 10 watt, 20 modulati. E se ho 20 ti fa quello che ti sto dicendo io? Se aumento, dove lo devo vedere? Nei watt, guarda, se tu per esempio lo porti a 50 watt, se ti dà picchi negativi. Allora, siamo a 50. Eccolo qua, 50. No, tutti i picchi positivi. Sia radio e wattmetro. Caspita. Allora è buono. Tira picchi positivi. Se lo porta 50 watt mi porta anche bianca. Cappa. 50 watt portate bianca. Aspetta che aumenta ancora. Allora, 80 watt, 80-90 modulati, picchi positivi. Caspita, complimenti, io è la prima cosa che sento. Allora te lo faccio accendere. Quindi c'è picchi negativi, allora scendo 90, positivo, se lo porti a 100 ti dà picchi negativi, però se lo porti a 90 picchi positivi, ma qua la radio è distorta, forse perché siamo vicini, però la radio è molto distorta, è quasi, vabbè, incomprensibile. Aspetta, la porto giù. Ok, 5 va. 5-10 modulati, 10-15 modulati. Più scendo e più mi dà di modulazione. Sì, però vabbè, 5 watt sono pochi. Portatelo anche a 20, se mi ti fa così portatelo a 20-25 e te ne prenderai 50 modulati. Esatto. Sì. Io adesso lo porto. Ok. Allora, c'è 30 watt, sono tutti positivi, e modulati 60 watt. Ok, perfetto. Allora, senza toccare niente, Fra, senza toccare niente, prova a allontanarti una ventina di centimetri dal microfono. Veramente 20 centimetri c'ero già. Allora, così sono un braccio, vieni a vedere così. Molto meglio. Lontano, no? Questo lo so, è così. Adesso io perché non è che ci abbia fatto questo spazio. No, però siamo, cioè, con gli stessi lati siamo durati, ha cambiato molto la modulazione. Caspita, allontanandoti sì. Non so se puoi abbassare dalla radio. il Mac Again, però ha già migliorato tantissimo con gli stessi blaster. Scappa. Allora, vediamo un po', adesso sono una cinquantina di distanza. Allora, il Mac Again lo porto da sotto la C, lo porto sotto la M. Ok, aspetta un po'. Adesso lo stava uscendo. Adesso sta uscendo. Sotto la M. Adesso sotto la M. Molla la così. A me mi sta arrivando benissimo. Scappa. Guarda, ti dico una cosa, io non andavo sui 100, non andavo mai, andavo sempre sugli 80, 90 massimo, andavo, 90 watt. A distanza, ma fuori, mi dicevano che avevo una bellissima radio, un bel segnale anche. Arrivavo 9.10, 9.20. Sì, vabbè, qua si fa lo scala, ma io non faccio aperto perché siamo un po' di schioppo. Però per me la radio così è bellissima, non ci sono problemi. Va bene, io guarda, a fronte di questa radio non mi lamento perché è una bella radio. Me la sentivo d'accordo, è l'unica che non ho mai dato questa, perché ne ho sempre avute queste da tanti anni fa, poi le ho vendute e poi me le ho ricomprate. Beh, positivo. Ce l'hai due minuti per programma 4.50, volevo mettere in volo a te. Certo che ce li ho. Aspetta, quanto ne vuoi? Aspetta, lo attacco, dai. Senta, ma... Vieni avanti. Questo qua è 4.50 con l'MC80. Buono. Caspita, l'MC80. Pure dicevano che l'80 non era tanto, eppure sta uscendo benissimo. Questo qua è 4.50 con l'MC80 a 60 centimetri di distanza. Non so se conosci il 450, io ho la potenza a metà della scritta della LC. Capo, no, la 450 non lo conosco, l'ho visto così su qualche cosa di vendita, però non so neanche come sia fatto. Questo è il 450. C'è bene, c'è una bella radio, quel microfono, mi hai detto che l'MC80 è abbastanza buonissimo come modulazione. Caspita, infatti a me mi hanno consigliato sempre l'MC85. Questo qua è l'MC80, questo è l'MC80, c'è da vedere. Sì, 15 watt di portata, allora 15 watt di portata bianca e 25 modulati, neanche 22 modulati. Va bene, sì, sono ai 9.20 e radio 5. Positivo, allora guarda, adesso io provo a fare, aspetta che mi provo una cosa. Ok. Guarda, provo a alzare un pochino l'altro, guarda a vedere se ti... come ti arrivo. Hola. Hola. Guarda, adesso ho fatto un pochino il latte. Adesso sono... 60 modulati, guarda un pochino. Picchi positivi, oh. Sì, picchi positivi, e si è andato quasi 9.30. Se vuoi lo posso sollevare un altro pochino, guarda, adesso sollevo un altro po'. Hola, hola, guarda un pochino, adesso ho sollevato un altro po'. Adesso è normale, è sempre lo stesso. Lo vedi, non cambia niente. Adesso lo riabbasso, lo riporto come era, allora. E prova il sì, e prova radio, e check, prova radio, sì. Ora, ok. Come era poco fa. 25 watt modulati. E diciamo è 15 watt, no, 12 watt di portata bianca. Ecco, già va bene, va bene. È un la radio è bellissima. Vabbè, la tua la modulazione è tutta diversa, corde vocali sono diverse. Io vado più sulle tonalità basse. Ma sono anche troppo alto, sono di vantaggio. Così è giusta, così è giusta. Ora, questo qua sono, diciamo, come deve girare lei l'argomento? Chiappa, c'è un momento che poco fa sei salito quasi 9.30, poi sei risceso a meno di 20. Adesso sono meno di 20. Leggermente però. E tu qua sei quasi a fondo scala da me. Tu sei quasi a fondo scala. Allora. Cioè se riesco. Essere a picchi positivi, Sei sempre a picchi positivi, in un modo o nell'altro sei andato sempre a picchi positivi. Così, però vedi, adesso mettiamo picchi negativi in alimentazione. Picchi negativi in alimentazione, lo vedi? Ok, adesso picchi positivi. Io non guardo molto queste cose qua perché è un casotto, Io vedo picchi positivi qua, specialmente quando fischi e decidiamo. Sì, perché diciamo che sono, dai, anche qua picchi positivi adesso. E niente. Io me ne accorgo da questo strumento. Comunque, è buono avere gli amperometri digitali perché ti indica tutte le cose. Ok, 13 amper, 13 amper, ora senti un po'. Allora, va bene, dai, meglio averli sempre positivi. No, io ti dico una cosa, con questa radio qua io proprio picchi negativi non li ho mai visti, a meno che non vado, come ti ho detto poco fa, dai 100 in su. Se metto a 100 spaccato schiaccio e vado a negativo, però se la abbasso un po', dai 90 in su sono tutto positivo, dai 90 in giù sono tutto positivo. Beh, lo sai cos'è, e questa qua in confronto al tuo è un altro tipo di radio, questa è tutta digitale. Infatti non è che mi va così a genio, Io sono più per il 440, come poi un S80, tutto diciamo meccanico. Perché i digitali così basta un attimino, poi al carrier molto delicato questa qua, che prende e va subito in va subito a saturare, quindi 440 è il tuo, il 140, il 430 non le fanno quelle cose, basta che vada la gamma di orientazione e tirano, diciamo un po' per ridursi. Infatti è così. Io una volta mi stavano dando, stavo per prenderlo, ero quasi per prenderlo, l'850 della Chevron, è tutto digitale lo stesso, ma quando ho visto che era il monitor digitale, per quel tiro, ho detto, boh, basta, lascia per di qua, non mi piace, e non l'ho preso. Mi piace più questo qua, mi piace. Questa è la luce, è molto migliore. Sì. Adesso mi metto nel cofano originale, mi guarda. Allora, questo qua è il mic originale. Lo vedi? Ah, sì! Come modulazione, mi sembra più chiaro questo di quello là. E non sei più una melodice. Questo qua è il mic originale. Questo è il mic originale. Guarda, posso addirittura, guarda un attimino, alzare il mic, guarda come se sta saturando fa radio. No. Ecco, questo qua è il mic originale della Kenwood. Il suo. Ora, guarda, però, sì. Però così va meglio, diciamo a mezzogiorno va meglio. Insomma. Allora, questo lo stesso è l'originale della figlia, questo qua. È il 600, dai. Anche il 600. Guarda, questo qua è molto più chiaro. È molto più chiaro, quello là diciamo che è più. Che schicca di più nel microfono, quello là, però questo qua è diciamo una telefonata, è chiaro, è bello. Esatto, infatti questo non l'avevo mai usato, da quando ce l'ho, la prima volta che lo attacchi, questo qua, questo l'ho fatto lei, ma è nuova, aspetta la bustiera qui. Sì, anche questo qua è nuovo. Anche questo è nuovo, non diciamo che non so mai, l'ho tolto l'altro giorno per fare le prove, però mi confermano che è più bello dell'MC80. Sì, dai, è molto più chiaro, più pulito e via. Solo che il problema non sai qual è, non è finta, non è finta, e più lo devi tenere in mano, questa cosa poi con un braccio. Lo so, però se ci pensi, mille prove, mille microfoni, prendi l'originale e va meglio di tutti, non è che non ha spinta, è vero, però cioè, se pensi alla qualità migliore degli altri. Sì, come qualità sì, è molto migliore, caspita. Vai a cercare mille microfoni, mille cose, poi vado a prendere l'originale e rimasi disazzera a tutti. Io sto sempre guardando i picchi qua nell'alimentazione. Ma comunque andiamo avanti così, dai. Perché qua mi dice ancora un po' di abbassare. Più scalda più devo abbassare. Ok. Più scalda più devo abbassare, fra, capito? Certo, sì. Guarda che io da poco, da qualche mese fa, ho parlato con uno in Spagna, parlato, e poi era origine sarda, era. sono all'Italia, cioè i genitori, non mia, lui era spagnolo, parlava l'italiano e stava usando un cable 140 con il microfono originale, con la cartoletta, e arrivava chiaro qua, chiaro. Sì, sì, arrivi chiaro. Noi siamo fissati con questa cosa dei microfoni da favolo, che esci più forte, che fai quello, quell'altro, però il microfono originale è stato studiato per questi apparati, mi segui? Cioè chi ha studiato questi microfoni non è che è uno scemo, quindi siamo noi che siamo fissati con queste cose qua dei microfoni per la spina, per le cose, però alla fine se ci pensi, se ascolti bene usciamo saturi, eh? Sì, qua io dico una cosa, a parte questo, no? Come anche come noi vediamo, come vediamo la rete, noi come tutte le altre, gli altri paesi, sono certi paesi che vengono in FM, in FM è molto migliore della M, cioè se noi moduliamo in FM non ci dice niente nessuno, l'importante è mettere il microfono originale, come questo esce una bomba. Sì, aspetta che devo di nuovo, come ho toccato l'FM, come sapete in FM devo di nuovo portare ora porto di nuovo i watt come erano, ora perfetto, così siamo qua poco fa, devo alzare un pochino. Ora, ehi. Ora, ok. No, io la verità non ho toccato niente. Potenza non ho toccato niente. Ho rimasto senza una certa potenza, con 30 watt, ho partito con 30 watt, poi man mano tramite le bande si è aumentato la forza. Io invece quello lo farei sempre a modificare, capito? Perché se passo in FM, mi dà pochi watt, e lo vedo la differenza tra l'analogico e il digitale, qual è? È quella che devi fare sempre, se passo in FM, queste cose qua devi fare sempre a toccare, a fare. Però, dai, ci accontentiamo così. Facciamo queste prove, le ciccia. C'è una cosa, sto andando sempre sul settore. Aspetta appena. Ok, adesso c'ho il processore attaccato, com'è? Ha aumentato il doppio del radio quasi. Non me ne ero accorto. Hai visto? Ma io c'ho il processore attaccato, Sempre il processore attaccato. Comunque quella radio l'avete toccato i cosi dentro, avete toccato la modulazione. Qual è la mia? È positivo. Avendola io no. Io non l'ho mai toccata, mai aperta, mai toccata. Avevo che non l'ha toccata chi c'aveva prima. Perché spinge, perché spinge, non credo che sia. Aspetta un attimo. Casino di chitarra di ghiccio, che una voce agli tocchi è un problema. Comunque va bene, LC, queste cose la rientrazione mi sta facendo uscire di testa. Comunque lasciamola così, no già spiegato. figlio già, la figlia non lo so quanti sta arrivando a te, di, se è una cosa, una radio forte oppure non lo so, però tu qua stai arrivando all'assurdo. No, no, la radio è fortissima la tua, è bella, è chiara anche, è chiara. Però che non hai spinta di LC, sai, diciamo che l'ago rimane più o meno sempre nello stesso punto quasi. Sì, sì, sì, vabbè, il microfono originale non lo fa, tutti usiamo sempre la saponetta. Sì, sì, sto usando la saponetta adesso. L'unica cosa che poco fa, la differenza era che non avevo il processore, vedi, adesso lo stacco mentre parlo, vedi, adesso invece lo stacco, guarda com'è adesso, probabilmente i tizi sono più di meno. No, no, attaccalo che ci vuole, attaccalo. Cappa, vedi, così c'è il processore. Cioè, guarda, veramente poco fa lo stavo usando, anche con la MX60 senza processore lo stavo usando. Ma figurati un po'. Anzi, adesso lo voglio provare così mi dai una comparazione della MX60. Vai, vai. Ok, adesso questo è l'MX60, sta impegnando il muro, sta spingendo di più di poco fa. Fa scherzi, capita di impegnendi. Adesso sono di nuovo con l'MX80. Caspita, sta spingendo, ma sta spingendo veramente. Capo, dai. Va bene, sono contento così. Funziona ancora questa radio. Sì, vabbè, facciamo per funzionare, caspita, allora lo sa tutto bene, funziona, non pensare che vada male. Male quando lo vedi, io sto attento a certe cose, quindi sarà perché sono un po' pignolo, però io sto attento a certe cose, ci vado dritto per tenerle più bene, il meglio possibile. Dicono, ma il segnale un po' così, vabbè, però non fa niente, mi senti? Sì, allora va bene così, non ci sono problemi, una volta che mi senti. Infatti, in effetti è così. No, io lo stesso, sono geloso di delle cose mie, perché io ho fatto fatica, diciamo, acquistarmeli, averli, e mi dispiace se che la cosa mi venga manomessa. Infatti non sono geloso, non voglio che la tocchi neanche nessuno, neanche a spolverarla. Ma quello anche io non voglio la tocca nessuno, ma neanche a spolverarla veramente. Io sono lontano questa mia figlia. Io, se tu vedi una stazione, io ho tre radio, più tre radio, perché ho ricevitore lì, come questo sono adesso, più il 3009, io non c'ho altro, non ho altro, l'alimentazione basta, non è che queste grandi cose, però non voglio lo stesso che le tocchi nessuno, me le pulisco io, le faccio io, no, addirittura non voglio neanche che le guardino. Davvero, la fastidio. Perché chi viene a casa non voglio, cioè, vuole che magari con la curiosità tocca una volta e mi dà fastidio. Quindi non voglio che la roba mi sia toccata, perché anche io ho fatto fatica a prenderla, quando la cosa te la maghi e te la giudi, pure per le passioni, la passione è anche un po' di gelosia. Capo. Io ho, guarda, per la corrente, per questo canale qua, c'ho, a parte l'alimentatore, ho anche un coso di tensione che ce l'ho a parte, io spengo quello, in modo che passa qualcuno, non tocchi niente, non accende niente, anche spengo quello lì e non ho la corrente da nessuna parte. Poi c'ho, a parte il 680, c'ho anche il 706, c'ho il Galaxy a corrente a 220, quello lì, e più c'ho un'altra radio qua, VU, è piccolina, non costa tanto, però se si fa, c'è qualche centinaio, non si deve dire un po'. Sì, no, vabbè, ce l'ho anche io, il VU, è una Lincoln, un ricolare. Però no, non voglio toccare niente a nessuno, la mia cosa, cioè non dà fastidio a nessuno, non voglio, io sono alla casa degli altri, non tocco niente, quindi chi viene qua non voglio toccare lo stesso nulla. cosa naturale, no, quello che sto dicendo. Sono una casa legata, il gambino dritto, non lo vedo nulla. Nel momento in cui lui si enoca. E quindi. Dai, c'è un po' di. Non gelosia, un po' di cosa, che un po' di educazione, dai, non vedo che mi si è toccata la mia cosa, la roba mia. Ma io non mi preoccupo di un amico che viene, che c'ha anche queste radio qua, come te, per dire con Gianni, non mi preoccupo di quello perché ci sono io davanti, dove quello è il problema. Non mi preoccupo dei familiari che salgono quando ci sono io, capito? No, ma io vado solo alla casa di qualcuno e vedo la radio, non mi ha dato neanche a toccarle. No, tocca giù, fai giù, perché io non voglio sapere. No, ognuno è geloso di vedere proprio uno ha le proprie radio, no, è proprio, non bisogna toccarle. Ma sa, per la radio sia anche per un soprammobile o per un impianto ferro, per un computer, non bisogna toccare niente a casa degli altri. Bisogna avere le mani un po' garibù, dai, in busciacca. Un pochettino in tasca, no, comunque è bello che fosse 80, l'aspita, bello, pompa fuori, allora noi siamo vicino anche, però anche a Sassari dove lo fa arrivare forte, è bello. Ecco, io a Sassari lo compro tutto. È positivo, allora tu sei anche più in alto di me, Io sono quasi all'uscita di Sorso verso Cinno, lì è la punta più alta. Io sono alla fine, io ho tutto coperto qua già fra. Sì, me l'avevi detto che eri lì vicino alla fine, a Camuila adesso. Una volta avevo visto l'antenna lì, avevo un visto sul tetto, poi non l'ho visto più, pensavo che non stavi più modulando. No, l'avevo tolta, poi adesso sono passi sulla. Ma dove sono più avanti di prima, sono verso dove c'è l'antico casolare. Lo vedi proprio sul tetto, lo vedi il traliccio e l'antenna. Ma io ho tutto coperto da qua a me. Ora io qua sono in un punto bruttissimo, tu pensa che ho tutta la Budi, tutte quelle montagne e tutte quelle collinette che ci sono, dove c'è la Budi, dove c'è il demolitore, ho tutto da fare giù a Sassari. Vabbè, ma non arrivi male però, un giorno che sono entrato ho visto che arrivava i segnaloni a Sassari e ti arrivavano segnaloni anche loro. Sì, vabbè, fra, guarda che io ho un bel impianto di antenne, io ho un bel parco antenne, non ho antennine, dai, non è che sto uscendo con antenne mute, ho cavi, tutto messo a pauroni, ho roba importante, non ho cavi da nulla, per forza un po' di avere, diciamo, se hai un po' di qualità, un po', dai, sviluppi. L'antenna, io ho dovuto mettere l'antenna su, se metti il traliccio in alluminio per essere un pochino più alto al tetto, ho cercato di adeguarmi, perché se mettevo tutta a terra la roba era proprio scarsa. No, tutta a terra è già un casotto, già io se metto a terra sono messo male, perché mi si è rotto a me, allora ho buttato giù un palo, avevo messo quei paletti che usano, che ho preso da Bricomen, tipo per l'antenna della televisione, ci ho messo la VU, la X200, ci ho messo sopra e il vento me l'ha piegata, me l'ha rotta, me l'ha proprio spaccata. E diciamo che l'ho messa più giù, l'ho messa e non prende più come prima. Prima mi arrivavano segnaloni da tutte le parti, Udi a Cagliari mi arrivavano, VHF, nelle bande radioamatoriali, dai, in ascolto, sul ricevitore. Mentre adesso non mi arrivano più così. Infatti cosa devo fare? Devo metterci un palo attaccato alla mantova, sopra e su a 6 metri, e gli attacco quell'antenna lì, in modo che non mi arrivino di nuovo i segnali come si deve. Io adesso qua a VHF non dico che ho segnaloni, io qua sono coperto per tutto, me lo dico, io qua sono coperto per tutto, prova a venire, io sono chiunque a venire qua, con le sue radio, con le sue antenne, arrivare come segnale e arrivare ad altri punti, liscio, liscio, io sono chiunque. Quando c'hai tutto negativo, io qua e noi qua possiamo essere positivi per il mare, tutto quello che vuoi, magari a noi non so, noi eravamo sulla buffone, però a noi senz'altro a noi in Corsica ci ascoltano, cioè a noi senz'altro in Corsica ci stanno ascoltando con segnali forti, perché io proprio per il mare sono aperto, ho tutto aperto, a noi in Corsica adesso ci copiano, ma soprattutto anche in punta nord della Corsica noi ci ascoltano forte. Lo so che ci ascoltano, è anche forte, perché io, a me mi ascoltavano forte da qua, io, noi modulavamo, allora, adesso non c'è più Pietro, povero Pietro Braccio di Ferro, che abitava vicino a casa mia, noi facevamo nottate parlando con la Corsica, ma senza propagazione, in diretta parlavamo con la Corsica, ma tanti anni fa, questo si parla tanti anni fa. Adesso non lo so se ci riusciamo più a fare una cosa del genere. No, vabbè, adesso tutta quanta questa porcheria che c'è nell'aria non lo fai più. Non te ne sei accorto che anche per arrivare a Valghero devi fare passi da gigante. In Valghero non collegarmi come niente. Io una volta da Circolo, lo conosci a Gianni che fa il camionista di Porto Torres, Falco Azzurro. Io stavo modulando, non mi ricordo con chi, a Sassari, mi ha telefonato, lui veniva a Circolo da me, ma tu la vi, ma tu lo sai che io sono a Bonorda, ma senza preparazione, sono a Bonorda e ti sto ascoltando, segnale 8, la radio è 5, ero attaccato, avevo il piccolo di linea di 500 watt, quello che trotte, ero attaccato, e lui qua sono a Bonorda, a me, Bonorda, Campea, lui a me mi ascolta, mi ascoltava sempre, ho detto guarda io che ti sto ascoltando, cioè mi sa accompagnendo da Porto Torres, adesso questa cosa qua non la voglio fare. Sì, che lo conosco a Gianni lavorava a Zara, caspita, conosco tanti anni, letterale. Sì, mi chiediglielo se ti sto dicendo, dici che non sta parlando, non avevo mai detto questa cosa. Lui a me mi ha preso il banano, la campera, lui mi ascoltava sempre. Capo, io con Gianni lo conosco perché io facevo carico e scarico merci lì alle gomme, pianto delle gomme, all'Eni che facevo. E Gianni veniva a caricare, scaricare di tutto lì, veniva. Ci conosciamo tanto tempo fa, poi conoscevo, non so se tu hai conosciuto Giovanni Caposanto, a Polverone, Michele. No, loro non li ho conosciuti fra, però Gianni veniva al Circolo da me a prendere il caffè, a prendere qualcosa, e ne parlavamo. Il giorno mi ha proprio telefonato, mi ha detto ma tu lo sai che mi sta accompagnando, mi ha chiamato quando era a Campeda, ha detto che ti sento ancora, ti sto sentendo ancora chiaro. Capo, Gianni è un grande amico, ma grande però, con la G maiuscola, è bravo anche. Sì, sono molto che non lo sento più e non lo vedo più a Gianni. Da quando me ne sono andato, io sono andato via a giugno 2018, da lì dentro, e non ci siamo più visti. Anch'io sono pure, non lo vedo a Gianni, non parlo con il fratello, a Franco, e niente. Va bene Franco, va bene, io adesso prendo, lo faccio, mi incolico un pochino, domani già sono libero, però un po' mi sdraio. Anche se quella chiama di Gizzo, protende. E tu domani lavoro? No, qui c'è Gizzo, una cosa lavoro. Domani andiamo a fare commissioni. Quello altro, quello che... che c'è, esce, va bene, però è importante tenersi impegnato. Va bene, allora dai, io ormai sono, come ti stavo dicendo poco fa, da giugno 2018 che sono in pensione, e non sto facendo proprio quasi niente, zero, proprio obiezionato, però diciamo che ci riferiamo in altre cose. Sì, ma fa bene, ha lavorato una vita, cosa devi fare, continua a travagliare, fa cosa? Vai con la pensione, vai fra, la futi di lì. E dato a chi ci arriva a pensione, che sono io penso alla pensione, non ci arriverò mai. Non ci arriverò mai, va bene, pensione. Infatti la fare la pensione devo travagliare altri 60 anni. Buono. E comunque, contenti loro, contenti tutti. E vabbè, anch'io quando ero un pochettino più giovanetto dicevo che volevo arrivare alla pensione, ma manco qua sono, e invece piano, un peda dall'altro lato, piano siamo riusciti. Meglio così, l'importante è arrivare, arrivare alla tappa, poi il resto lo conta. Piano, a meno che questo governo di merda che ci abbiamo, che non cambi sempre le leggi, come sta facendo, perché sono dei bastardi, insomma. Va bene, dai, mi ha fatto piacere, capito, stasera di farmi un questo regolare con un degli amici. Ci sentiamo, capito. Buonanotte, buon tutto, allora, e ce ne ascoltiamo le prossimine. A Gianni, ma scusa Gianni, scusa a Franco, allora mi sente a Gianni, mi sente a Gianni, fa azzurro, adesso non ricordate, adesso quando lo vedo, adesso qualche giorno lo chiamo, e niente, sì Franco, mi ha fatto piacere, dai, quando vuoi fare la chiamata, vuoi far cena, la radio ce l'ho sempre accesa, ce l'ho sempre, guarda, ne ho una sul 20, una sul 10 e una sul 12, quindi quando vuoi fare la chiamata, che tu vuoi scambiare quattro parole, mi fa sempre piacere. Fai un fischio, se no con la merida, intanto gli ami via la Giulia. Ciao Fra, buonanotte, fammi bene. Io ma non avete sonno. Niente, quando lo senti a Gianni, allora se lo chiami mi lo saluti, da Franco di sotto, da parte mia, già sai chi sono lui. Ciao Tino, buonasera. Allora, ciao Franco, ogni tanto esci dalla bucca. Ciao capito. Ciao Tino, buonasera Tino, ben sentito, riprendi Franco che ce l'ha con te. Ciao, sì, cosa vuoi Tino, ogni tanto così ho visto che c'era, stavo provando della cosa per un microfono ed è entrato Valvino e da allora siamo rimasti qua a parlare, poi c'era anche Gianni, Gianni se n'è andato e siamo rimasti a Gavino. Avanti a te Tino. No, io va bene, stavo guardando un film, ho finito quella di riguardarmi, sto accendo la radio, va bene, l'ho accesa, ho visto l'importante, la bassa. Vi stavo ascoltando, adesso entro a salutarvi. Lo so che non ti arrivo a te, ti arrivo basso, però anche le portate basse le devi guardare tu, avanti capito. Guardi tanto a vedere le portate che erano 30 in su, Fra, ormai non ci va neanche a retta. Infatti, allora, se ti affaccio la fretta, Fra, ti tocco la mano anche. Anche per te. Va bene, dai, intanto bisogna far sentire. No, io per la verità ce l'ho, diciamo quasi ogni notte acceso, solo che per motivi di lavoro non faccio questo prolungato perché adesso devo essere già in terra, quindi iniziare un discorso magari poi non finirlo perché c'è sonno, ma non mi piace, quindi preferisco magari parlare più il fine settimana. Entro positiva, ma magari ascoltare, capito? Sono sempre una volta di felicità, cioè una su 10, una su 12, una su 20, e quindi io sono sempre acceso, poi quando vuole entrare c'è qualcuno che si può fare un questo come si deve, prendere e schiaccio la portante e si inizia, ma riprenditi. Avete parlato quasi in contemporanea con Franco e per dire la verità sentivo un po' Franco un po' te, però effettivamente non sono riuscito a capire ad entrambi. Vai Franco. Scusa, forse ho schiacciato e l'ho messo d'accordo. Ho detto, Tino, se non vuoi avere tutti questi impegni di lavoro, cose così, fai come ho fatto io, ho mandato il curriculum all'Inpis, ho mandato, e me l'hanno accettato e gli impegni sono finiti. Insomma, diciamo che ancora una decina d'anni credo di che mi snubbino, quindi ancora fra una decina d'anni magari mi prenderanno un po' in considerazione. Forse. Aspetta, vabbè, era un'idea quella, perché oggi se non fai il curriculum ti prendono da nessuna parte, avanti a me. Ti stavo dicendo, fra, non sa sapere a me fra 60 anni se ci sarà ancora l'Inps. Io si continuo così, non lo so, 40 più, a me me ne mancano 40 almeno altre 25-27, dai, per andare bene. Non è garrato che roba pensato fare ancora per altri 27 anni, mamma mia, non si può. Va bene, mi vedi fra. Guarda Henry, che io ho fatto i conti da quando ho iniziato a lavorare, ho iniziato nel 69 e ho finito nel 2018, e più o meno sono 50 anni. Dai. 50 anni per i Burelli, e mi dice se hai fatto i 3 anni del Parlamento che toccano i 2000 che mi sono messo a vita, maledetti, guarda, riprenditi. Anche io non è che li possa sopportare più di tanto, ma, però loro dicono a noi, poveracci, dicono voi non avete fatto, lo facciamo noi, quello è vero. Purtroppo loro hanno avuto testa e l'hanno fatto. E vabbè, no, capì, l'altro giorno stavo curiosando su Facebook nel tuo profilo, ma c'è qualche festa in programma per caso che tu devi montare a fare queste cose qua? Sì, a Perfugas, sì, martedì a Perfugas, sì, martedì è entro settimana, via mare. No, perché vabbè, sono mio figlio, ma perché non lo dici che mi porta così a fare? Vabbè, non è così, non è semplice, bisogna parlare, vedere un pochino, magari organizzare anche. E cosa? Ma perché gli piace la cosa dell'audio? Qualche complesso così, se c'è qualche complesso bellino, là, interessante. Vabbè, io devo montare su un carro di carnevale, però sì, se lo vuoi far venire a vedere, a passarsi una giornata, magari la accompagni tu, perché magari 24 ore o 20 ore sono in stagione, sono pesanti, però magari quando siamo vicini, magari ci sono, magari devo fare io i nomadi o qualche gruppo tranquillo, che diciamo è anche bello da vedere che c'è gente, ti avviso, magari lo porti. Sì, e poi non sapere, poi magari vedo un po' se sono impegnato, ben volentieri, non quando è che è andato da poco, dove è andato da Alghero, da solo, c'era quello, ora non lo ricordo. chiama, un ragazzo nuovo comunque, che poi ha cantato anche a Sanremo, se non mi sbaglio. Cosa? L'ho capito, ce l'ho sulla punta della lingua. No, noi facciamo a Sciale, a questi qua, ragazzi abbiamo fatto a Fasce, noi vigiliamo, li seguiamo tutti noi quando vengono qua in Sardegna. Ti faccio sapere quando c'è qualcosa qua vicino che non ti impegna molto, anche perché magari è poi alle 5, alle 4 e mezza quando esci dal lavoro, lo puoi portare, così magari provi a inserirlo. Io se così fare, insomma, passare una giornata sempre sono ai impegni di calcio, perché anche lui vuole fare mille cose, sai ragazzi, io oggi sono frenetici, o perlomeno anche io lo eravamo, ma tu pensa, quando io esco col camper non posso sostare più di 2 ore, dai andiamo là, andiamo qua, che cavolo, lasciamelo della giornata, porca miseria, sempre in movimento, andiamo a vedere quello, andiamo a vedere quell'altro, oh, yeah. È così, vabbè, beate gioventù che hanno la voglia di fare tutte cose. Va bene, vai Franco. Vabbè, i bambini, lo sai, li devi accontentare, Tino, li devi. E poi se li hai sempre accontentati, una volta che ti tiri indietro, quelli lì ti dicono cosa. Sì, vabbè, lui ha già 16 anni, va a toccare quasi 17, tra un po', quindi è già per i fatti suoi, non è che sta pensando a me, però molte volte, sai, quando siamo assieme, in famiglia, che esco per dire che adesso dalle parti di Rosigo, le parti di lui, vorrebbe vedere più cose possibili, visto e considerato che siamo in giro, capito? Quello è, però una volta che io vado in quel posto lì già, ti puoi godere la giornata, perché magari hai guidato più del dovuto, ti vuoi rilassare dopo mangiato, perché hai fatto qualche bicchiere di più, magari devi stare sempre con la parola più lungo, capito quello che voglio dire io? Ti capisco, quello già è vero, purtroppo è così, vabbè, si fa quello che si può, avanti, capito? Perché magari lui vuole per caso 17 anni, allora di buffarlo, lui dice, allora fa una cosa, il prossimo anno ti prendo la patente, lo porti tu a babbo, io prendo, mi rimango seduto in camper dentro e tu guidi, io sono invece più guardi, a sta sempre guidendo. Perché sono, dai, allora sono curiosi, magari il camper, le cose le piace girare, ed è normale. A me già mi piacerebbe il camper, già mi piacerebbe. Io avevo la Roulotte, ed era anche grande perché aveva 6,40 m di cellula, era gemellata, aveva diciamo 2 assi, era 7 metri, era 6,40, era 6 metri, 7,80 lata a timone era. Era bella, l'avevo presa, era usata, però era bella. Poi l'avevo venuta perché un circolo non riuscivo a fare niente, ed era fatto un anno ferma, diciamo una stagione ferma, e sono venuta perché altrimenti è un casino. L'avevo venuta, però mi sono divertito. Adesso mi sta piacendo il camper, anche a me, il camper mi sta piacendo molto. Però lo stesso ti fa un po' dei conti, dici, io le fate sono sempre in stagione, diciamo col service, mi vanno sempre guidenti, quindi non va bene anche a tempo, però mi sarebbe piaciuto averlo e diciamo uscire. Ma guarda, io ho iniziato con la Roulotte, un Shadow, mi pare si chiamava, ed era un 5 metri, e però era tantissimi anni ferma alle Limbari. Cosa è successo? Sono andato a Rosei la prima volta, cacchio. E poi vengono parlamenti così, e alla fine fa, allora l'articolo, e fa male, la moto sta volando, e ok, io sto volando, è successo, allora vedevo quando stavo pregando un po' fuori dal normale, mi sono decalato che ci era staccato dal fondo, il fondo dalla cellula, allora avevo già organizzato le ferie ad andare lì a Rosì, quindi ho detto, ma che volevo fare? Arrivo il parcheggio lì a Pazzola, mi appoggio alla cellula, alzo, perché si è alzato di 40 centimetri, figurati, ho detto no, ma facciamo una cosa, io sono andato a bancare, ho preso la cinghia, quella dei camionisti che solitamente usano per tirare con la crechetta, con le larghe, dai, con le grandi, ho preso tra e l'ho legata, l'ho legata, da lì sono andato così e mi sono divertito lo stesso, cioè era più il divertimento che avevo con questa roulotte così mezzo marcia, e niente, vabbè, finiamo le ferie e mi metto l'aggiusto da qua, ho preso dei pannelli, l'ho bella siliconata, qua l'ho aggiustata bene e me l'ho venduta. Con quei soldi che ho recuperato me l'ho comprato un'altra da Palermo, un'Adria, un 4,50 m, per appunto qualche anno. Dopodiché lo stesso, diciamo che non è andata a buon fine anche quella, perché i ragazzi si erano dimenticati la luce accesa e era tappata da una sacchetta dei cannocchiali praticamente, la luce ha surriscaldato e ha preso fuoco. Preso fuoco e mio figlio, il piccolo, mi ha detto, ma la roulotte sta fumando, cioè andiamo bene, praticamente sono uscito fuori, sono riuscito a salvarne la metà.